Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori, il bagno alla turca. Ridurre la macchina pubblica, dico a Giordano che bisogna eliminare le province come soggetti politici ulteriori. Cosa vuol dire soggetti politici? Bisogna eliminare le province, punto. Sono lì le province. Sai quanto, scusi Giordano, le svelo. Ci sono dei dipendenti basti nelle province. Lei cosa fa? Vuole eliminare i dipendenti? È codice penale questo, è reato. Non voglio perché lei non può eliminare i dipendenti. Però... Allora è vero! Allora, come ha detto ieri Mario Giordano a Matteo Renzi, che era ospite di Nicola Porro Virus, allora le province esistono ancora! Grazie, direttore Giordano, perché qua ognuno lo mette in dubbio, ma esistono, sono lì, vive! Utilizzate sempre il vecchio metodo! Toc toc! Bussate sul palazzo della vostra provincia, se qualcuno vi apre... Ah, ma lei... Allora, la provincia esiste ancora? Eh sì, esiste ancora. Non le hanno abolite. Ma adesso, dice Renzi, abbiamo abolito i politici delle province. Ah, i politici delle province. Ah, no. Vabbè, basta mettersi d'accordo sull'italiano. Si chiude oggi la 75esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. E la riforma è per fare la riforma elettorale. Bene, e si chiude, sono le 6:29 minuti. Questo è 24 mattino con Lorenzo Nespoli in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Si chiude la settimana, si apre il Parlamento. Qua noi andiamo un po' in controtendenza, eh? Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. E allora voglio salutare uno che il Premier Renzi l'ha potuto vedere, l'ha potuto toccare con mano, l'ha potuto testare di recente, non 5 giorni fa, è il nostro Paolo Del Debbio. Eccolo qui. Buongiorno caro, come va? Benissimo, conduttore di Quinta Colonna che ha fatto un botto lunedì con Renzi, eh? No. Oggi ci siamo e anche domani ci siamo e anche domani anche lunedì sera ci siamo, insomma, sì, generalmente sì assolutamente sì. E allora, caro Del Debbio, voglio presentarti un uomo, un ricorso. Me lo immagino. Eccolo qua, Carlo Rienzi. Me lo immaginavo. Il quasi omonimo. La nostra battaglia di oggi è il ricorso contro la circolare di Alfano sulle nozze gay. Che miseria. Quindi invitiamo tutti i cittadini, tutti, gay e non gay, aderire, le associazioni gay ad aderire. In nome delle leggi europee, cioè, ma fare volta. Che? Aderire che? Tutti dobbiamo presentare tutti un ricorso. Aderire a questo ricorso al TAR, certo. Perché non è che bisogna essere gay per sostenere che ci deve essere la libertà di sposarsi per avere la pensione di reversibilità quando muore uno e l'altro rimane da solo e altre cose di questo genere. Sì, c'è un piccolo problemuccio che non c'è una legge al momento. C'è la legge, ma non c'è bisogno della legge perché non c'è un divieto esplicito. Ma fa l'avvocato Rienzi, come non c'è la legge? Fa l'avvocato. Fa l'avvocato lei, non c'è la legge, ma chi se ne frega? Questo è il concetto. La creiamo. Se la creiamo. Del Debbio, hai già aderito a questo ricorso al TAR? No, sono le 6:30 di mattina, uno aderisce almeno dopo le 9. Effettivamente, almeno un'adesione morale. Sì, io aderisco a tutte le cose che rispettano i diritti, però i diritti sono scritti nelle leggi, come diceva il professor Milan, e quindi insomma... Bravo. Ma com'è bravo Rienzi? Sta dicendo che siccome non c'è la legge non è che si può... Ma i diritti sono diritti fondamentali dell'uomo stabiliti nella Convenzione Europea ma di diritti ho capito dell'uomo. Ma ora vedrò il ricorso e poi decido. Ecco già dei dubbi del debito alle 6.30 alle 6.30 deriva moralmente alle 6.31 tu firmi un ricorso se sai neanche averlo visto. No, io non ho mai firmato niente. No, lo facciamo vedere prima. Faccio neanche più gli assegni vedere. Faccio i bonifici online per non firmare gli assegni ormai lascia stare. Non firmo. Sono scomparsi gli assegni, avete notato? No, non mi faccio un ricorso per la scomparsa, per la riapparizione degli assegni. No, perché non c'è l'assegno da anni. No, ma va bene così, Rienzi. Va bene, va benissimo. Viviamo benissimo lo stesso. Allora, dobbiamo fare del debbio, è la seconda settimana che dobbiamo fare questo appello che continua Free Rossella Brescia, perché ce la stiamo facendo, secondo me ce la stiamo facendo lentamente. Dai, allora, mandate questa graziosa creatura che risponde al nome di Rossella Brescia all'interno di 24 mattino, perché questa qui è un problema proprio ormai esiziale, cioè Milan e del debbio se non ce l'hanno poi diventa male. Sì, effettivamente, cari amici di RDS, su, prestatecela un giorno, non vi costa nulla. Noi vi stiamo anche facendo pubblicità poco occulta e molto palese, e quindi amici quindi magari licenziano Milan e quindi magari esatto mi licenziamo, tanto poi c'è Rienzi che fa ricorso e lo riassumo. Sto vedendo le foto su internet e come si fa a fare ricorso contro Rossella Brescia? Che in diretta mentre parliamo di Rossella Brescia, scusa, perché non ce l'ha presente Carlo Rienzi, ha dovuto fare le foto. Le foto favolose. Ma Rossella Brescia è favolosa. Non è che chiamiamo l'ultimo scarto della terra. Siamo avanti. Vabbè, no, qua scarti non ce ne sono, come dimostrano il professor Del Debbio, il professor Rienzi e tutti gli altri nostri ospiti. Ma andiamo avanti per l'appunto. Com'è allora Renzi? È combattivo Del Debbio? Perché qualcuno mette in dubbio che stia vivendo un momento un po' di, come dire, di un po' di crisi, cioè di consenso. Invece com'è? Ben sicuro di sé? Ma io i consensi, diciamo, non lo so, ma mi sembrava fino a 15 giorni fa che i consensi ci fossero, e come, da un po' di robe che erano uscite. Dal punto di vista personale è combattivissimo, sì, su questo non c'è dubbio. È uno che va avanti, al contrario di presidenti del Consiglio che lo hanno preceduto, di destra e di sinistra, che al primo stormir di fronde stavano attenti, facevano le riunioni, cosavano, e tutto sommato facevano qualche passetto indietro, no? Se ricordiamo Prodi, per certi versi anche Berlusconi, per certi versi vabbè, Monti e Letta erano un po', cioè avevano Napolitano che faceva politica, quindi il problema era diverso, ma per gli altri, più normali diciamo così, Prodi era circondato, cioè praticamente le loro coalizioni li tenevano un po' in scacco, no? Questo è sempre stato un problema, Berlusconi l'ha detto anche esplicitamente, non ho fatto le riforme perché non me le facevano fare i miei, no? L'ha detto varie volte, CCD, UDC, insomma, Lega, AN e così. Ebbene, mi pare che Renzi questo problema non duro su questo punto. E mi dice, vabbè, non sono d'accordo, le province ci sono, eccetera, d'accordo, si può discutere sul merito. Però gli va dato atto di una forza e di una determinazione nell'andare avanti. Forte del suo 40%. Com'è? Avete sentito la zampata di Del Debbio? Com'è che faceva Monti e Letta? Vabbè, tanto era napolitano che faceva. Era napolitano il presidente del Consiglio. Ma perché tu hai dei dubbi? No, io vivo di dubbi, quindi no. Ah, vivi di dubbi, sì. Io vivo di debbio. Io vivo di dubbi, e quindi, insomma, Monti e Letta, il Presidente del Consiglio era napolitano, in realtà. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio. Insomma, mi pare che avessero un appoggio da parte di napolitano, assolutamente. Quando qualcuno andava fuori il binario, napolitano diceva queste cose vanno fatte. Vabbè. Non ve lo ricordo. Allora, No, è chiaro. Non è che sia meno... Adesso è anche presente. Però Rienzi, cos'è che manca nel discorso di Del Debbio? Che vede un Renzi molto ben in sella, difficile da disarcionare sicuramente, molto sicuro di sé. A me piace molto sentirlo parlare perché amo lo spettacolo, devo dire, e credo che quindi tutti gli italiani sono molto affascinati da Renzi, come sono affascinati dal Papa. Io continuo come ho fatto in un mio pezzo sul blog dell'Huffington Post, a paragonare i due che hanno delle tecniche di comunicazione molto molto simili. Renzi come il Papa, Bergoglio e Renzi. Però ecco, poi alla fine c'è ragione pure chi gli dice sì, vabbè, ma invece di dire 100 cose e promettere 100 cose, facciamone allora 3-4 subito, sì, ma vere, non come le province. Questo è quello un po' che imputano a Renzi, esatto, del debito, cioè quella, l'annuncite, la famosa, esatto, annuncite. Deve stare attento però, perché poi la gente si incazza, perché dopo un po', se si accorge che non seguono i fatti concreti, finisce che si rovesciano tutti contro. Non è un po' il limite fino a questo punto del debito, anche dal punto di vista della comunicazione, che però è una strategia finora ben precisa da parte del Presidente del Consiglio? Sì, no, certamente ci sono dei limiti, no, perché questo non c'è dubbio, però io sostengo alcune cose, che poi ci sono cose importanti e importantissime, va bene? Tra le importantissime c'è tenere in Europa, e mi pare che Renzi lo faccia, nel senso che sta adottando una strategia discutibile, anche quella un po' virgolette keynesiana, diciamo, sia un parolone alle sette, qualcosa, però la porta avanti, e lo stesso fa nel suo partito. Allora, poi è vero che alcune riforme ci vorrebbe più coraggio, in particolare sulla questione fiscale, e cioè proporre un piano all'Europa, siccome ora Joe Biden, hanno detto tutti, in Europa era buono, va bene, andiamo avanti, allora io andrei là e gli direi questa cosa. Beh, siccome è andata bene questa, allora io porto un piano di tagli alla spesa e il doppio di riduzione fiscale, e vediamo un po' cosa dicono. Ma qua bisogna fare vedere, bisogna fare con i conti, cioè riduzione fiscale. Qua oggi sul Sole 24 Ore c'è l'elenco dei ministeri taglio per taglio, dove spariranno, dove prenderanno soldi ai ministeri per la legge di stabilità la prossima settimana. I tagli più corposi al lavoro, 2 miliardi e 200 milioni, all'istruzione 1 miliardo e 100 milioni. Ma come l'istruzione, la scuola non era? Ma bisogna vedere che tagli bisogna sono. Vedere. Certo, se sono sprechi, se personale docente o altre robe, insomma. Sicuramente. Intanto accogliamo l'appello di Nino, che ci scrive che la Brescia è l'unica provincia da non abolire mai. Mai. Ma questo è un appello che sottoscriviamo, e non ricorre neanche Rienzi. Non ricorre senza ricorso di Rienzi. E poi c'è questo dibattito, mamma mia, all'interno del Partito Democratico, uno di quei ancora, dibattiti di che parlano, animeranno le vostre colazioni, e che è questo: che fare nei confronti di Mineo, Ricchiuti, poi chi è che c'è l'altro, il terzo, mamma mia, manco, Tocci si è dimesso, ma da Renzi, no, ma ce n'è uno terzo, aspetta, Mineo, Ricchiuti, vabbè, adesso non me lo ricordo. Vabbè, Casson, eccolo qua. Però dice Casson è arrabbiatissimo. Sì, è arrabbiatissimo. Sì, ma anche per altri motivi, perché è una questione complicata. Dice che il PD ha difeso un senatore del PDL accusato di robe turpi. Vabbè, insomma, comunque sentiamo Renzi su Tocci. Farò di tutto perché Tocci rimanga. Farò di tutto perché Walter Tocci continua a fare il senatore. Walter Tocci ha espresso le proprie posizioni, fa parte di un partito, ha scelto una linea politica, poi ha accettato quello che il partito ha detto. E vabbè, ma farò di tutto perché rimanga del debito. Ecco, questi Rienzi, aiutatemi voi. Gli italiani cosa pensano di questo dibattito? No, non ce ne può fregare di meno. Guarda. Ecco, vabbè. A noi ci interessa che non riusciamo a pagare le bollette della luce, dell'acqua, del gas, che paghiamo un sacco di tasse, che adesso dobbiamo pagare la TASI, che non si capisce niente nemmeno. Arriverà un'unica tassa, arriverà un'unica tassa, ha detto Renzi. La tassa Renzi? Renzi. Che poi è facile, perché se dovete fare un ricorso, fate il ricorso contro un'unica tassa, se vincete togliete tutte le tasse su. finalmente. Mamma, tanto la facciamo in Europa. Sì. O la va o la spacca, potete giocare così. Se ne vincete uno di ricorso, abolite tutte le tasse. Non sarebbe male come... Che sogno. E che poi che facciamo? Come andiamo in autobus? Come facciamo le colazioni nelle mense scolastiche? Come facciamo tutto il resto? Come facciamo a pulire le strade? Ah, già, è vero, però a Roma sono sporchissimi. Ah, ecco, qualcuno si è dimenticato di pulire. La battaglia contro... A proposito, Renzi, ho sentito che Di Pietro vuole fare un nuovo partito. Ma com'è quella storia che la chiamò una volta? Mi devi dare qualche minuto di tempo, non si può. Non si può. È troppo bella quella, troppo bella. Questa è troppo bella e da due anni non ce la dice. Un giorno, avendo tempo. Chissà che è successo. Vabbè, Del Debbio, come finirà questa storia con Casson, Ricchiuti e Mineo? Ma non ha alcuna rilevanza per la maggioranza. No, per la verità, per la maggioranza degli italiani. Cioè, il dibattito interno a un partito... è interessante, al limite può essere interessante per questioni di tipo, come si dice, di tipo contenutistico, dopodiché è normale, cioè lì c'è uno che, Renzi avrà sbagliato anche tutte, ma han votato nel partito, la maggioranza ha votato così, se non ci vuoi stare va via, cioè... Ho capito, ma cioè, non si può votare contro, sì, si può, ma devi uscire dal partito. Quindi ha fatto bene questo Walter Tocci, no? Che dice me ne vado. Non credo che sia Renzi, no, che gli ha detto vai via, cioè perché hai votato contro. È lui che non condivide la linea, da quel che so io, no? Penso no, ma che questo è pure giusto, con tutte queste correnti, come c'era una volta, ma ricordate che il freddo con tutte le correnti. Il correntismo, una schifezza, allora, un partito basta, diminuisca di quelli che non sono d'accordo e che fanno un'altra cosa, fanno certo con un altro, può... è come quelli dei grillini che fanno, ma mica possono rimanere con Grillo, la metà se ne andranno a qualche altra parte. E chi lo sa, chi lo sa questo, intanto chi ovvio. Rimane nel partito è Bersani, sentite però che dice. Si dimostra fedeltà e lealtà perché alla missione, quindi io credo che... perché riguarda me è inutile aspettarsi che io dia una coltellata nella schiena, preferisco prenderla che dare coltellate alla schiena. Questo è molto cristiano, gli fa onore. È una cosa che ha preso una coltellata, non so se avete notato, cioè, secondo Rienzi ha detto che ha preso una coltellata, Vabbè. Un po' pesantuccio è stato, meglio così. Preferisco prenderla che darla. Però, caro Rienzi, potreste fare un bel ricorso nei confronti di Sabina Guzzanti? Ecco, propongo, non so per l'appiglio a quale tipo di legge, eccetera. Così, sì, io, ricorso visto, morale nei confronti. Ho visto il film a Venezia, devo dire che ho dormito parecchio, però alcune parti mi hanno dimostrato il grande coraggio, che non credevo che avesse il coraggio di attaccare anche Napolitano. È uno invece... spot terribile questo per il film, ho dormito parecchio. No, perché effettivamente, ma io poi conosco tutte le vicende, quindi credo che uno che non le conosce invece viene preso un po' dalla cosa. Ecco, però è questa difesa molto forte di tutta una parte della magistratura, a me non piace. Adesso avete visto il parere del Consiglio Superiore della Magistratura? Il parere del Consiglio non l'ho visto, ma a me la questione è perché cosa ha fatto Sabina Guzzanti? La Corte ha deciso di non fare assistere all'udienza in cui deporrà Napolitano. Bagarella e Rina. Sì, ha detto solidarietà a Rina e Bagarella, ma adesso uno va bene, può fare tutto, ma nei confronti di tutti quelli che sono saltati sul tritolo di Rina e Bagarella, che cosa penseranno i familiari di queste persone, caro Del Debbio? Di questo? Si incazzano e fanno bene come ci incazziamo noi, ma che cazzo vuol dire? Dico, scusa l'espressione, ma cioè, non è che uno, siccome è bravo, può dire quel che vuole, no? Perché poi diventa un bischero, cioè, capito? Allora, che vuol dire? La solidarietà a Rina e Bagarella è una grande. Poi oggi aggiunge sul Fatto Quotidiano, ha detto sì, sono pentita, ma solo perché mi dimentico che ogni tanto che viviamo in un paese di ipocriti collusi, mentre io penso di vivere in un paese libero, anche sta storia. Ma è uno, paese può sempre anche andare all'estero, insomma. Ma voglio dire che non si vive in un paese libero e hai appena fatto un film nel quale, io non l'ho visto, ma sicuramente si attacca al Presidente della Repubblica. Tutto, e quindi voglio dire, ma però il Corriere della Sera non è un paese libero. Libero. Corriere stamattina gli ha dato la coltellata alla Guzzanti, l'avete visto, no? Ho visto. Dopo il flop del film, sì, è andata su Twitter. Ma devo dire che in questo momento si fa molto sentire e vedere su queste cose. È chiaro che è tutta promozione al film, questo non c'è dubbio, no? Del debbio. Non la inviti, sì, la Guzzanti? Ha detto una roba che non si deve dire, che non la può dire nessuno, neanche la Guzzanti, a meno che non si ritenga talmente al di sopra di tutto e di tutti che può dire qualsiasi cosa. Guarda che questa è una malattia frequente, sì, di persone che si ritengono al di sopra di tutto e di tutti. Sì, sì. Ah, sì. Ad esempio ci sono dei colleghi giornalisti, no? Sì, per esempio? Conduttori, che dicono ad esempio come dovrebbe fare il giornalismo anche gli altri, come dovrebbero fare. Secondo me c'hai qualche sassolino, hai letto, non so, uno che si chiama quel presidente del Senato sul Corriere della Sera? No. E cosa? Chi è? No, uno che si chiama come il stai pensando? Ah. Grasso, ma lì siamo oltre. Come ti permetti? Non nominare il nome di Grasso in vano. Siamo una regione. Ma sei un cialtrone. Non mi permetto, andiamo al traffico, non mi permetto. 24 mattino. Ho osservato le sceneggiate dei 5 Stelle. Ma non si vergognano, noi di sceneggiate bossiane già ne abbiamo subite molte. Ciao Alessandra, ma Sturenza è un altro dittatore, perciò ha smesso di fare sì che si è messo in politica, così non esce più per fare il dittatore anche lui. Vorrei fare un appello ai 5 Stelle, per favore tornate in TV, non possiamo più vedere tutte le sere Renzi in quel talk show, Renzi in quell'altro, la Moretti in un altro, e basta, facciamone una vera opposizione, no? Caro Alessandro, possibile che non la capisci, i cardinali hanno lo sconto sulle sigarette perché in Vaticano costano meno e quelli che non possono recarsi a comprarle in Vaticano hanno lo sconto sulle tabaccherie qua in Italia. L'Italia, lo sai, è basata sulle palle di vetro. Oddio Alessandro, che periodo nero brutto, schifoso. Vabbè, meno male che ci fai ridere della mattina, con un po' delle tue risate ci metti buon umore. Caro Milan, noi non siamo italiani perché non amiamo la nostra patria. I nostri governanti ci pigliano per il culo e basta. Alessandro Milan e Mauro Meazza, la radio costa, grandi ragazzi. Ovvio, il microfono costa, questa è la nostra segreteria telefonica. Del Debbio, con quale sassolino ti vuoi togliere dalla scarpa? Con chi? No, c'è? Nessuno, lo dicevo per dire, perché mi fanno arrabbiare le persone, sarebbe come un calciatore che dice ai calciatori di altre squadre come si deve giocare. È mai avvenuto? Perché allora c'è stata qualche critica all'intervista a Renzi. No, quelle sono ben accolte, ovviamente, le critiche le facciano pure, sono rosiconi, ma che vuoi fare? Sono rosiconi, so come dice Renzi, gufi. Sono anziani rosiconi. I rosiconi, vabbè. Allora, sentite questa della Taverna, ve lo faccio sentire, è la Taverna, perché la Taverna regala sempre tantissimo. La taverna. Paola Taverna. Movimento 5 Stelle, gli amici di Del Debbio. Sì, anche i tuoi però. No, io ho rapporti normali, Taverna. Ecco, io no. Questo ragazzotto di 48 anni, che l'hanno detto prima i miei colleghi, non ha mai lavorato nella vita. 38, c'è ragione, manco qui dentro poteva entrare, invece è entrato con la manina in tasca a piaccia in giro. Di 38 anni, che non ha mai lavorato nella vita, però ha pensato bene a 19 anni di farsi assumere dal papà e di avere tutte le garanzie che in 60 anni. Vabbè, non lavora, sì, non lavora. Ma pure Rutelli non aveva mai lavorato nella vita. Sì, ma tanti politici lungo corso. non lo so, dobbiamo raccontare quello che è successo a Napoli. C'è qualcosa da dire di quello che è successo a Napoli con questa vicenda di questo povero ragazzo di 14. Io sono uscito di testa quando ieri ho sentito le voci dei parenti di coloro che hanno abusato con l'aria, il compressore, l'obeso, a un ragazzino obeso, dicendogli, pare, scrive il Corriere, sei obeso così ti gonfiamo ancora di più. Pare che gli abbiano detto, prima di ridurlo in fin di vita. E c'è gente che lo giustifica, sono i familiari, a dire ma una bravata, ma è una ragazzata. Ma io dico, ma dove? Oggi ho letto un titolo di un giornale a dire, di fronte a una difesa di questa cosa finisce la civiltà proprio, no? Uno che difende un figlio o un parente perché ha fatto una cosa del genere, neanche. Vabbè, ma Napoli è una giungla, cioè, l'avete visto, vabbè, da Santoro. Le immagini di Napoli adesso, cioè, con questa bella frase Renzi si rende amica tutta Napoli è una giungla, è una giungla, purtroppo, del debito. Questa è l'analisi di Renzi, ma Napoli è una giungla. No, ma ragazzi, ma cioè, io sono rimasto sconvolto, ma guarda, stavo pensando mentre parlavi a cosa dire, e quella frase di quel giornale è esatta, cioè quando succede una roba del genere finisce la civiltà. Cosa vuol dire finisce la civiltà? Ma soprattutto difenderli, cioè difenderli, esatto, anche se è tuo figlio. Finisce quel minimo di umanità necessario perché insomma una civiltà si dica tale. E quindi se poi dopo Rienzi dice una frase grossa come Napoli è una giungla, io non lo so se è tutta Napoli una giungla, quel pezzo lì dove è successa quella roba lì sicuramente. Ma sicuramente sì, ma senti qua un po' di... Partire dal sindaco. Gigino sospeso, che c'è, ma qualcosa... Che diamine, io continuo a dire che fa bene, resisti Gigino, resisti. Noi resisti Gigino, resisti, che tra 4 mesi va tutto in prescrizione. Resisti. Aveva fatto ricorso contro la discesa in politica di De Magistris. Chi l'aveva fatto? Vediamo, chiediamo a Del Debbio chi aveva fatto ricorso. Secondo me la Codacos. Sì, il Codacos. Esatto. E avevamo ragione. Ma avete vinto? Lo avete perso? Perché questa è la cosa. Pende. Tutti la giustizia. Avete visto sto parere del CSM? Che vergogna! Ma che parere! Le vacanze ridotte vogliono! Ma che parere! Perché fanno male alla giustizia le vacanze ridotte! Avete fatto pagine di parere, un ricorso fatto contro le vacanze ridotte. Vabbè, io vi devo salutare. Grazie Carlo Rienzi, grazie Paolo Del Debbio. Lunedì su Quinta Colonna, su Rete 4, Quinta Colonna, in prima serata. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18 minuti in questo istante, cari amici miei, è venerdì. Cari amici, cari debosciati tutti. E si è chiusa ufficialmente, si chiude oggi la 75esima settimana decisiva per l'abolizione delle province e per la riforma elettorale. Non è successo nulla di quello che speravamo, ma la 76esima settimana è alle porte e noi confidiamo in questo. Oggi avremo ospite alle 8:45 l'avvocato di Totò Riina, Luca Cianferoni, per parlare di questa vicenda della mancata convocazione in aula, o meglio al Quirinale, sarebbe stato in videoconferenza per l'udienza di Napolitano. Però prima parleremo di lavoro. Sapete che è successo in Veneto? Si sono presentati in 7.000 per un posto da infermiere a Vicenza, da tutta Italia, e il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che sarà ai nostri microfoni, dice ora basta, prima i veneti, nella sanità dove noi siamo virtuosi, vorremmo concorsi con preferenza a chi è residente in regione. Con lui dibatterà anche Pino Aprile, giornalista e scrittore. Saranno nostri ospiti dalle 8:15. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani.

Siamo al momento conclusivo, il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi vince con un'intera pagina. La Stampa con Paolo Mastrolilli. Care donne, voi che dite sempre di essere multitasking, sappiate che ci sono delle ricerche. Mai esagerare col multitasking, danneggia il cervello. Fare troppe cose insieme è come se si fumasse la marijuana. Il multitasking. 24 mattino. Sono le 8:21 minuti, siamo qui cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, si parla tanto di lavoro di questi tempi, ovviamente, del lavoro che non c'è soprattutto e della riforma del lavoro. Noi vogliamo però partire da una storia concreta, che da un fatto che è avvenuto lo scorso 7 ottobre in Veneto, Vicenza e Padova per la precisione, dove le ASL hanno deciso di assumere due persone. Risultato, si sono presentati in 6.923 da tutta Italia, perché il lavoro lo si cerca dove c'è. Addirittura ci sono state anche organizzazioni di pullman che hanno fatto con agenzie di viaggio, che hanno organizzato pullman per andare a fare i concorsi appunto a Padova e Vicenza. Il governatore del Veneto Luca Zai ha rilanciato anche alla luce di questo episodio l'idea, che traduco così, regionalizzare i concorsi soprattutto nell'ambito della sanità. Zaia, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Cosa vorrebbe dire regionalizzare i concorsi soprattutto per la sanità? Ce lo spieghi? Beh, guardi, in una regione come il Veneto, dove in questo momento abbiamo 200.000 disoccupati, una disoccupazione all'8,5%, un ragazzo su due di fatto ha difficoltà a trovare lavoro, penso che sia doveroso che l'amministratore delegato del Veneto, cioè il sottoscritto, pensi prima ai suoi cittadini, ai 5 milioni di veneti, e poi a quelli del resto d'Italia, del mondo. Per cui la nostra idea è quella fondamentalmente di riuscire prima o poi a garantire le corsie preferenziali ai cittadini che abitano in Veneto. Ma come si può fare? Se poi questi cittadini hanno, mi scusi, 10 generazioni venete, o ce n'hanno una solo perché sono degli immigrati che sono arrivati, però il vero tema qual è? È che prima vengono i cittadini che abitano stabilmente in Veneto. Sono residenti, ma come si potrebbe fare? Cioè dare un punteggio in più a chi partecipa al concorso perché risiede in Veneto? Sì, guardi, io penso che la questione che ho sollevato ponga anche l'accento su un fatto che ormai è anacronistico. Vedere i territori che si depauperano dei cervelli, dei ragazzi che se ne vanno all'estero, e poi un pullman organizzati da fuori per fare in modo di riuscire a trovarsi un posto di lavoro magari nella nostra regione. Quindi la volontà è quella di corsie preferenziali, punteggi e priorità, né più né meno di quello che accade magari in giro per il mondo in altre comunità. Non è però, Zaia, la storia dell'Italia e anche in parte del Veneto quella di persone che sono andate a cercare il lavoro laddove il lavoro c'era? Sì, guardi, noi abbiamo più oriundi veneti fuori dal Veneto che in Veneto. Pensi che in America Latina e in Brasile si parla il Veneto come lingua ufficiale, ma noi non siamo andati a fare i concorsi pubblici, siamo andati a fare i lavori più umili. Ci siamo guadagnati la credibilità di quei paesi e oggi occupiamo anche delle posizioni apicali da un punto di vista sociale. Qui invece stiamo parlando di un'altra cosa. Per la sanità, mi lasci dire, c'è un altro tema che è ancora più grave, che è quello delle borse di studio. Non capiamo per quale motivo dobbiamo finanziare le borse di le specialità di medicina, scusi, non le borse di studio, e quindi sono delle borse di studio ai neolaureati in medicina, e poi i nostri veneti che escono dalla facoltà più vecchia del mondo, che è Padova, debbono vedersi sfidate queste borse di studio, quindi i posti nelle specialità, che sono pochissimi, a vantaggio di altri studenti. E tra l'altro lei, Zai, ha legato questo anche alla questione degli sprechi nella sanità. Facendo questo discorso, noi siamo virtuosi in Veneto sulla sanità, potremmo assumere tante persone, avremo bisogno anche di tante persone, ma siccome abbiamo sul groppone, diciamo, le spese, gli sprechi delle sanità di altre regioni, non possiamo fare questo. Quindi poi ci ritroviamo i lavoratori che magari arrivano anche da altre regioni. Che tipo di discorso è questo, secondo lei? Ma guardi, glielo dice uno che ha portato in attivo i bilanci della sanità negli ultimi 4 anni in Veneto. Noi facciamo attivo curando bene i cittadini, quindi la sanità può essere veramente un'azienda importante in ogni regione, però quando tu vedi che 4 regioni del sud hanno 5 miliardi di buco della sanità, capisci che qualcosa non funziona. Quindi la sanità, se gestita bene, può veramente essere una grande opportunità per i nostri ragazzi, per i lavoratori, perché comunque la richiesta di sanità è una richiesta che non svanirà mai nella società e noi siamo in grado di fornirla in maniera competitiva, quindi noi siamo in grado di creare posti di lavoro, ma siamo letteralmente trascinati giù dall'effetto della mala gestione di molte regioni. Però le vorrebbe soprattutto per i veneti, non è egoismo leghista questo? No, guardi, io non ho mai trovato un amministratore delegato che si occupa del bilancio delle altre aziende. Io devo far quadrare i conti. Se i miei conti non quadrano, alla faccia dell'egoismo, Roma mi commissaria. Allora non capisco per quale motivo. Se governo male vengo commissariato, se governo bene non posso decidere cosa fare. Allora Zaia, mi lasci presentare, le presento un giornalista, scrittore, Pino Aprile, sicuramente non sarà d'accordo con le sue teorie. Pino Aprile è autore di vari libri, tra i più famosi Terroni, Giù al Sud e Il Sud Puzza. Pino Aprile, allora cosa c'è che non va, buongiorno intanto, nel discorso di impostazione del governatore Zaia secondo lei? Ma intanto qualche numero, lui parla di 200.000 disoccupati su 5 milioni e un giovane ogni due non trova lavoro. I numeri non quadrano, perché su 5 milioni di persone, 200.000 disoccupati, è difficile che un giovane su due, non ci siamo con i numeri, le percentuali. In Veneto 200.000 disoccupati. Beh, per forza, l'ha detto lui, sì. Dice, un giovane ogni due. Quanti giovani ha il Veneto? 100.000 in tutto? Un pochini. In più non vedo perché, dice lui, devono venire da fuori. Governatore, quel da fuori dove? Dal Botswana, dalla Scandinavia, vengono da un paese che si chiama Italia in cui c'è il Veneto e finché le leggi sono queste e il paese è unito, quel da fuori è davvero una espressione puramente no, ma è razzista, è il progetto della Lega, prima il Nord, la Costituzione dice che i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di eccetera eccetera, e non dice prima il Nord. Ma non ne fa uguali. Però Aprile, mi scusi, non ne fa tanto un mistero Luca Zaia dire prima il Veneto, visto che io vado ai conti del Veneto. Infatti questo è puro razzismo, perfetto. Cioè, lui è chiaro, è sicuramente e candidamente razzista, anticostituzionale. La Costituzione non dice prima il Nord, che poi fra le chi nemmeno vanno d'accordo, perché lo slogan era prima il Nord, ma alle elezioni il Veneto ha detto prima il Veneto, quindi avremo una Costituzione così scritta. Prima il Nord, cioè anzi prima il Veneto, poi il resto del Nord e poi quei cittadini che i leghisti, cioè il partito di cui Zaia fa parte, hanno definito, secondo la fantasia il senso di decenza dei suoi rappresentanti, topi da derattizzare, calderoni, merdacce mediterranee, Borghezio, oppure per arrivare a Salvini che aveva proposto che in metropolitana Milano si dovesse cedere i posti ai milanesi, cioè questo senza 50 anni dopo. Sì, sì, questo qualche anno fa lo ricordiamo. Però Aprile, adesso risponderà Zaia alla questione di accusa razzista. Vorrei capire il discorso invece che faceva Zaia sulla sanità virtuosa in alcune regioni come il Veneto e sulla non virtuosa in altre regioni. Allora, fra le regioni virtuose non c'è solo il Veneto e i numeri sono da guardare bene. Lui ha parlato dello scempio di quattro regioni del sud che insieme fanno quasi 5 miliardi di deficit. Sì. Segnalo un solo ospedale di Milano che da solo ha fatto da 1,5 miliardi a 2 di deficit, il San Raffaele, cioè più di molte regioni del sud messe insieme. Però i conti prendiamoli in totale, diciamo. Sì, il San Raffaele è fallito. Il San Raffaele è stato un caso, è fallito. Sì, ma voglio dire, cioè, si parla di deficit di intere regioni. Sì. E poi fra i deficit di intere regioni ci sono anche nella sanità quelle del nord, non solo, ma è stata varata una riforma adesso, cioè da qualche anno, della gestione della sanità, per cui cosa è successo? Grazie a un trucchetto leghista è stata parametrata la spesa sanitaria soltanto sulla speranza di vita, il che ha comportato per esempio che nelle regioni dove già si vive di più, si è curati meglio, si hanno altri soldi per essere curati ancora di più e vivere ancora di più. Ma in questo il sud è stato abbandonato, dice, con questo tipo di discorso. No, è stato derubato. Pensi che la campagna in solo 3 anni ha visto sfilarsi 1 miliardo di euro perché andasse al nord, il che significa che nella terra dei fuochi, dove già si muore prima per il cancro, si morirà ancora prima e si sarà curato. Insomma, questo è stato il sacco del sud. Zaia, sia sui conti e sia sull'accusa di essere candidamente e apertamente razzista, visto che dice prima noi degli altri. Ma guardi, io innanzitutto saluto il signor dottor Aprile. Vorrei dire, io ho un motto, no? Come dicono i gesuiti, piuttosto che rassicurare fedeli è meglio evangelizzare gli infedeli. Quindi ne approfitto. E il razzismo è tutt'altra cosa. Io semplicemente pongo delle questioni. Quanto alle questioni che sono state poste dal dottor Aprile, la prima dico, non sono sbagliati i numeri. Noi abbiamo 200.000 disoccupati. Io ho detto che un giovane su due ha problemi con il lavoro. Il che significa che sotto i 30 anni in Veneto abbiamo un ragazzo su 4 che è senza lavoro sotto i 30 anni e 2 su 4, quindi gli altri due, sono in situazione di precariato. Andate a sentire cosa ho detto prima e confermo quello che ho detto. Secondo aspetto, il tema non è una questione di razzismo, è una questione di difesa di un territorio. Io non posso vedere depauperare investimenti sociali e famiglie che se ne vanno dal territorio. Cioè, non è che questo è un progetto di vita del Veneto. E quando dico vengono da fuori, glielo ripeto, vengono da fuori, vengono dalle altre regioni. Come è altrettanto ammissibile che le regioni del sud difendano fino in fondo con i denti i posti di lavoro prioritariamente. Però Aprile dice c'è l'Italia, è una, da fuori può dire dalla Francia. Certo, da... ma guardi lo slogan prima il Veneto, anche qui facciamo chiarezza. E lo slogan prima il Veneto l'ha coniato il sottoscritto nel 2010, dopodiché abbiamo fatto un congresso della Lega nel 2012 e lo slogan prima il Nord l'ha coniato il sottoscritto nel 2012. Però per carità, prima il Veneto, prima il Nord, noi diciamo che abbiamo una visione assolutamente in linea con l'autonomia e il federalismo. Pensi solo una cosa, che in altri paesi dove le cose funzionano, ad esempio la Germania, questi discorsi non fanno scalpore. Poi quanto alla sanità, penso che il dottor Aprile, prima di parlare di sanità con me, deve veramente studiare tanto, perché dire che c'è stato il sacco del sud vuol dire non conoscere minimamente i conti della sanità. E non basta una telefonata a un amico della campagna per farsi dire i conti della sanità. Facciamo un confronto sui numeri della sanità quando volete, perché i numeri che ha detto il dottor Aprile sono assolutamente infondati. Non c'è stato nessun razzo delle Sabine, furto del... La verità è che il dottor Aprile dovrebbe dire: il nord ha tutti questi problemi, li elenca, e poi dice il sud non è in grado di sfangarsi dalla mala gestio. I terroni, come li chiama lui, che vivono da me al nord, mi dicono sempre: ringrazio Dio di vivere in Veneto, perché sono curato bene, perché trovo lavoro e perché sono trattato in maniera civile. Voglio ricordare infine, visto che parla di razzismo, che la mia regione, tornando alla sanità, è regione benchmark, cioè vuol dire riferimento per la virtuosità nei conti, quindi non è vero quello che ha detto. 2, è la regione dove c'è la migliore integrazione degli immigrati, per cui il razzismo glielo va a dire a qualcun altro, non a me. Aprile, insomma, qui la questione dei conti della sanità effettivamente fa un po' specie sentire che il sud è stato derubato. Su tante cose magari possiamo essere d'accordo: il sud è stato abbandonato, mancano politiche di sviluppo per il sud, ma dire che sulla sanità ci sia una gestione positiva, insomma. Allora andiamo con i numeri. Non si tratta di fare una telefonata a un amico, che un modo molto furbesco di aggirare la faccenda. Sì. Questi numeri vengono fuori dall'analisi di quello che è successo dopo la revisione dei criteri per la distribuzione dei soldi alle regioni per la sanità. I criteri che dovevano governare questa distribuzione, perché ci fosse un pizzico di equità, erano una mezza dozzina, poi ridotti a uno solo, quello della speranza di vita. Sì. Il che persino, voglio dire, senza essere nessuno di noi Einstein, rende chiaro che chi già ha un'alta speranza di vita è curato meglio. Però Aprile, si fermi qui sui numeri, perché io devo liberare Luca Zaia, devo andare in pubblicità, ma dopo sulla questione dei numeri voglio ancora fare un paio di domande ad Aprile. Però Zaia, mi faccia approfittare per capire una cosa: oggi Salvini va in Russia, parte della missione in Russia, lei ha detto che vuole aggirare, o ci spieghi come, insomma, evitare l'embargo sulla Russia, che sta creando molti problemi al settore economico di imprese che esportano in Russia e in Veneto. Cioè, cosa avete in mente con la Russia? Beh, guardi, per tornare a bomba, per restare nell'argomento, la dichiarazione di sanzioni contro la Russia si trasforma in embargo poi da parte della Russia nei confronti dei nostri prodotti. E chi ne fa le spese? Ricordiamo anche il dottor Aprile e i cittadini che ci ascoltano, soprattutto il Veneto e la Lombardia, perché noi abbiamo degli scambi commerciali intensi, il Veneto ci rimette più o meno 600 milioni di dollari. Questo è quello che sta accadendo, qua poco più di mezzo miliardo di euro. E quindi cosa fate voi? E quindi noi diciamo che siamo per la pace, siamo per i rapporti civili, tutto quello che vuole, ma ricordiamo anche una cosa, che noi vorremmo far capire alla Russia che non condividiamo queste dichiarazioni di guerra, fra virgolette, che vengono fatte, e speriamo che si possa aprire un ponte diretto e quindi dar modo ai nostri produttori, che creano occupazione per i veneti, per i cittadini del sud, per gli immigrati, di vendere il grana padano, di vendere i prodotti tipici, di vendere i nostri prodotti della meccanica, di dare una risposta alle 600.000 imprese che hanno un PIL di 170 miliardi di euro. E ricordo, dottor Aprile, che 21 miliardi di questi 170 miliardi ogni anno li regaliamo a Roma per pagare i buchi della sanità del sud. Eccolo lì, torniamo a bomba. La ringrazio, Zai. Sai che stanno tagliando ancora le regioni, le leggi di stabilità? Se vi tagliano ancora, voi siete disposti a tagliare settimana prossima? Beh, no, noi non tagliamo assolutamente. No, nel senso, vi tagliano, vogliono tagliare ancora le regioni, ecco questo. Ma sì, vogliono tagliare le regioni per fare ancora in modo di tagliare ancora nella sanità. Noi scendiamo in strada, uomo avvisato, mezzo salvato. Scendete in strada, se toccano la sanità, scendete in strada. Beh, guardi, noi siamo virtuosi, mi spieghi per quale motivo? Se da me una siringa costa 4 centesimi, il giro per l'Italia costa 26, vieni a rompere le palle a me. Vadano da chi la paga 26 centesimi. È abbastanza chiaro. Intanto la ringrazio. Grazie a Luca Zaia, governatore del Veneto, della Lega. Dopo la pubblicità rientriamo anche con gli ascoltatori. 800 24 00 24. Rimane Pino Aprile. Avremo anche poi dopo l'avvocato di Totò Riina, alle 8.45. 24 mattino. Siamo qui. Allora, ci stanno chiamando in tanti ascoltatori sul tema Zaia, regionalizzare i concorsi. Antonio da Roma ci chiama, buongiorno Antonio. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo dire una cosa, che nonostante io sia figlio di genitori meridionali, sì, condivido le fare di Zaia. Perché ci scandalizziamo per questa cosa, poi non ci scandalizziamo noi del sud quando la Sicilia, con la scusa della regione autonoma, saccheggia le casse di noi italiani per distribuire privilegi ai propri cittadini e ai propri politici. Quindi lei dice, Antonio, lei è di Roma, ma è... Io sì, di Roma. Ah, è originario proprio di Roma. Padre calabrese e madre napoletana. Ecco. Quindi sono al di fuori di ogni sospetto. Calabria, Campania e Lazio. Sì, poi alla fine noi ci scandalizziamo, ma personaggi come Ciancimino, come Gava, li hanno eletti questi stessi cittadini. Questa è un'altra questione. No, però lei dice è la mala gestione. Aspetti, voglio dire che per anni hanno vissuto nella speranza di un posto statale dove non si facesse niente, di una pensione che non gli spettava e di qualche altro privilegio alle spese di quei poveri fessi italiani che lavoravano. No, Antonio, qua guardi, c'è Pino Aprile, uno scrittore, che giornalista che di questi temi parla spesso, ha scritto libri, insomma, l'assistenzialismo. E allora perché Aprile non si... No, ma perché non si dimettono i finti forestali calabresi? Perché non si dimettono e dicono noi vogliamo essere italiani e lavorare? Ma sono interessanti queste stipendio. Considerazioni che lei fa, le giro a Pino Aprile. Ma mi sembra un buon campionario di luoghi comuni, esempio il posto pubblico e cose c'era. Bene, i dipendenti della sanità sono molti di più al nord che al sud. Se dovessero diventare il numero massimo ce l'abbiamo in Emilia Romagna, poi in Lombardia, se in Lombardia per esempio dovessero adeguare il numero di dipendenti della sanità a quello che c'è in Campania, dovrebbero licenziare, vado a memoria, posso sbagliare numero più numero meno, 24.000 persone. i privilegi della regione Sicilia, che è amministrata, sì, su questo non ci sono dubbi, niente affatto bene, ma ricordo che quanto a privilegi il presidente della provincia di Bolzano guadagna più di Obama. Sì. Se la Sicilia, applicando lo statuto speciale che non applica, si tenesse le tasse del suo petrolio, potrebbe fare a meno delle centinaia di milioni che manda lo Stato centrale, e con i suoi 10 miliardi potrebbe abolire le tasse. Posso continuare? Sì, sì, cioè, No, ma è chiaro, il dibattito poi, come si suol dire, è aperto. Insomma, il dibattito è culturale oltre che economico e di numeri. Io, facciamo così, per il momento mi devo fermare perché c'è il traffico, dobbiamo cambiare tema, però vi reinvito, insomma, a fine aprile sarà invitato nuovamente e approfondiremo questo tema che ha suscitato anche molto dibattito con le tante telefonate. Se c'è tempo riusciremo anche a recuperarne qualcuna in chiusura. Prima però devo andare a sentire le informazioni sul traffico e poi avremo ospite, è già collegato con noi, lo voglio salutare, l'avvocato Luca Cianferoni, che è l'avvocato di Totorina. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Da lei tra un attimo per il tema, ovviamente, che sappiamo tutti su tutti i giornali: Riina, insieme a Bagarella, insieme ad altri imputati, altre persone, non potrà partecipare collegato all'udienza in cui testimonierà il capo dello Stato. 24 mattino. Allora, l'avvocato Luca Cianferoni è l'avvocato di Totò Riina. Intanto le chiedo questo, avvocato: è davvero possibile l'annullamento, la nullità dell'udienza, addirittura del processo sulla trattativa Stato-mafia, perché non saranno presenti Totò Riina, Bagarella, altre persone? Sì, buongiorno di nuovo. Io direi proprio di sì. Già stamani, tra l'altro, leggevo sui giornali, anche ordinari di procedura penale seri si pronunciano in tal senso. Non riesco proprio a capire perché la Corte d'Assise sia andata a infilare in questo vicolo cieco. Ma perché, guardi, mi risulta, ho letto quello che c'è sui giornali, cioè già la prerogativa di partecipare nelle udienze agli imputati non è un automatismo. Quando addirittura l'udienza si tiene non in un'aula ma in un luogo costituzionalmente da preservare, come in questo caso il Quirinale, prevale questo senso dello Stato e di tutela rispetto alla tutela e al diritto dell'imputato. No, allora, io non sono assolutamente d'accordo con questa interpretazione, perché proprio se fosse questa l'eccezione da tutelare, la norma lo avrebbe detto, no? Il 205 lo avrebbe scritto e avrebbe, nel 205 si leggerebbe, nel caso in cui si va al Quirinale l'imputato non può presenziare, invece non l'ha scritto il legislatore, perché è un'interpretazione completamente assurda. Sarebbe come dire che un processo civile, perché ricordo che questa è una corte civile, non è una corte marziale di guerra, qui non siamo in guerra, quindi se in un processo civile si mette a rischio la sicurezza del Palazzo del Quirinale, diciamolo chiaro, allora qual è la situazione? Insomma, nell'ordinanza ho letto che si fa riferimento alla impossibilità di far accedere la polizia dentro il Quirinale, ma il Quirinale è tutelato da oltre 700 carabinieri, questo ricordiamocelo, che hanno un bilancio a parte anche molto cospicuo. Sono i corazzieri, esiste proprio un reparto carabinieri che non sono solo quelli che vanno a cavallo in grande uniforme, hanno una specializzazione di tutela assolutamente primaria. Ma secondo lei, non capisco questa interpretazione su quale. Vabbè, però è l'interpretazione della Corte d'Assise, ma lei che farà? Farà ricorso? Chiederà nullità del processo? Questa prova a questo punto è così impostata, darà modo alle parti di chiederne molte altre di prove. Già stamani leggo su certi quotidiani che si paventa, si chieda magari all'esito dell'esame del Presidente della Repubblica un approfondimento e quindi un nuovo esame. Ecco, io non posso certo affermarlo perché non so quali potranno essere i contenuti della prova, ma non posso certo escluderlo in questo momento. Non può escludere che voglia chiedere una nuova testimonianza, ma secondo lei non si può certo escluderlo, certo. E poi devo dire che su questa interpretazione ragione per la quale il luogo costituzionale va tutelato, di rilievo costituzionale va tutelato, ecco, io mi riservo gli approfondimenti del caso. Le chiedo, ecco, quindi, certo, per esempio, ma... sentire anche il segretario, ora ho in mente i tempi sono ristretti, quindi farò partire subito la raccomandata di Frassi. No, questo sì, però avvocato, le chiedo, segretario della, mi faccia dire questo, che è importante, sì, il segretario del Quirinale, perché chiarisca questo aspetto della sicurezza, che trovo assolutamente incongruo rispetto allo suo, ma avvocato, non le sembra come dire, anche una questione etica che nel Quirinale non entri, seppure in videocollegamento, Totò Riina o Leoluca Bagarella? No, assolutamente no, se passasse questa interpretazione, ma per dire, non è l'interpretazione della Corte d'Assise di Palermo, ecco, sarebbe molto grave, sarebbe un segno di disfacimento delle istituzioni, perché la legge non sarebbe più uguale per tutti. Quindi, sì, però siamo alla situazione in cui Sabina Guzzanti mostra solidarietà a Bagarella e Riina. Sabina Guzzanti è una grande artista, quindi percepisce il sentire sociale, e la gente non capisce tutta questa cosa, questo è il punto, ecco, credo che sfugga anche agli addetti ai lavori, ecco, l'orientamento di tutta questa vicenda inerente all'audizione del Presidente della Repubblica. La Guzzanti è un attore, è una persona di spettacolo, e quindi percepisce e rappresenta provocatoriamente, sentisce il sentire sociale. La gente credo sia stufa di questo sistema non immediatamente percepibile, non semplice, capito? Non, cioè, ma quale sistema? Cioè, lei vede troppo arroccamento? Scusi, cioè, lei avrebbe preferito che Napolitano fosse venuto a Palermo a fare... Io non dico questo perché quello che preferisco io non conta. La norma, il 205, ripeto, del codice mito prescrive che si debba osservare una prerogativa del Quirinale, e trovo che sia giusto questo, andando presso la residenza. Nel caso degli altri grandi ufficiali, dal Presidente del Consiglio ai senatori, agli onorevoli, il giudice può anche imporre di farli venire presso la sede. Il capo dello Stato no. Solo il capo dello Stato no, perché ha un ruolo, aveva prima dell'evoluzione in senso decisionista di questo ufficio. Noi ricordiamoci che il capo dello Stato ormai interviene quotidianamente in ogni vicenda, quotidianamente. E non dico solo questo capo dello Stato, è un'evoluzione che da Cossiga in avanti, noi negli annuari della giurisprudenza costituzionale e della prassi del Quirinale ritroviamo. Questo capo dello Stato non è certo dico un capo dello Stato degli anni 60, quando si diceva il Presidente della Repubblica è uno che interviene, è uno che interviene. Ma solo il Presidente Napolitano già interveniva, il Presidente Ciampi già interveniva, ho detto Cossiga per dire quello che forse nel ricordo di tutti era l'interventista, il picconatore, no? Il picconatore. Sì, sì. Quindi ecco, questo ufficio comunque nella legge è tutelato, bisogna andare noi là, vabbè. E questo va bene, e questo è giusto. Però siccome non lo dice la norma che non si possano, che non possono venire le parti, o che l'udienza sia riservata, perché si è anche tirato fuori questa cosa dell'udienza. E lei non è chiaro, lei farà ricorso. No, ma avvocato, devo fermarla qui perché purtroppo il tempo è finito. Farete un ricorso, vedrete di fare qualcosa. Intanto la ringrazio, l'avvocato di Totò Riina, Luca Cianferoni. Ci troviamo lunedì. ADP, leader mondiale nella gestione del personale. ADP-italia.com. Vi ha presentato 24 mattino.